Chi se ne importa di soffrire quando mi addosso le colpe, io peggio muoio. Nessuno guarda i miei soli dolori, io quando respiro il mondo sconvolgo. Chi se ne importa di soffrire quando mi addosso le colpe, io peggio muoio. Nessuno guarda i miei soli dolori, io quando respiro il mondo sconvolgo. E questo tempo che passa lascia che l'amore sembra che muoia. Io lascio un posto nell'anima quando capisco che il tempo non vola. Mi sento un'altra distante da te perché viviamo un'altra diversa storia. Chi se ne importa se poi io sto bene, se quando lo vivo tutto mi annoia. È che se piango prego può essere una luce chiara. È che il suo troppo ego l'ha reso ciò che detestava. Io penso che sincera non contano i soldi e la fama. Io con la musica sento che batte questo mio cuore anche in mezzo a mia gara. Non so se dirtelo adesso, se dentro me tutto resta lo stesso. Un solito ingresso a tutte le strade che mai hanno un senso. Io mentre cerco quella che prima pensavo volessi, io questa vita la vivo al contrario, come riflessi da dentro gli specchi. Chi se ne importa di soffrire quando mi addosso le colpe, io peggio muoio. Nessuno guarda i miei soli dolori, io quando respiro il mondo sconvolgo. Chi se ne importa di soffrire quando mi addosso le colpe, io peggio muoio. Nessuno guarda i miei soli dolori, io quando respiro il mondo sconvolgo. E questo tempo che passa lascia che l'amore sembra che muoia. Io lascio un posto nell'anima quando capisco che il tempo non vola. Mi sento un'altra distante da te perché viviamo un'altra diversa storia. Chi se ne importa se poi io sto bene, se quando lo vivo tutto mi annoia. Io ripenso, scrivo un riflesso dentro una luce che trema per strada. Un fulmine sento, sta mare aperto, ti chiedi chi veramente ti ama. Mi culla in effetti la solitudine, è solo una questione di abitudine. E dentro gli occhi ci vedo tutto come chi ti sorride perché sei utile. Penso che c'è qualcosa che mi inonda. Una luce che mi tiene se si affonda. Penso che c'è qualcosa che mi inonda. Mentre riprendo il respiro sento quello che riesce ancora a sorprendermi. Chi se ne importa di soffrire quando mi addosso le colpe, io peggio muoio. Nessuno guarda i miei soli dolori, io quando respiro il mondo sconvolgo. Chi se ne importa di soffrire quando mi addosso le colpe, io peggio muoio. Nessuno guarda i miei soli dolori, io quando respiro il mondo sconvolgo. E questo tempo che passa lascia che l'amore sembra che muoia. Io lascio un posto nell'anima quando capisco che il tempo non vola. Mi sento un'altra distante da te perché viviamo un'altra diversa storia. Chi se ne importa se poi io sto bene, se quando lo vivo tutto mi annoia.